Relativamente al libro L'invenzione della specie, la domanda è: le specie esistono? Lo specismo esiste? E che cosa significa che l'antispecismo si realizza autodissolvendosi? L'invenzione della specie cerca di svolgere un lavoro di decostruzione sul concetto di specie, analogo a quello che è stato fatto ad esempio dal pensiero femminista e queer sul concetto di genere. E quindi, riassumendo molto, il pensiero che attraversa il libro è quello secondo cui la specie non è tanto o non è solo una categoria biologica, ma è soprattutto un costrutto politico performativo che ha lo scopo di gerarchizzare e classificare il vivente al fine di mettere al lavoro i corpi dei viventi stessi. Se ci pensiamo, lo stesso Darwin definisce la specie come un costrutto di convenienza atto a raggruppare tra di loro soggetti in qualche modo simili, ma soprattutto in altre definizioni del concetto di specie la specie è costituita da individui in grado di riprodursi tra di loro, quindi c'è una sorta di irruzione della norma eterosessuale all'interno del concetto di specie che ci fa riflettere sul fatto che la specie sia tutt'altro che una categoria neutra e naturale, ma che abbia funzioni anche politiche, funzioni differenti, come dicevo prima, e fondamentalmente direi la sua capacità operativa di costruire corpi che hanno delle specialità e che quindi sono corpi che contano, che vanno preservati, che accedono alla sacralità della vita, e invece speciazioni, cioè la produzione di corpi, in primis quelli dei non umani, ma poi quelli di tutti quegli umani che sono stati animalizzati, i quali invece hanno corpi che vengono smaterializzati da un punto di vista concettuale ed eliminati da un punto di vista fattuale. Quindi il problema che si pone il libro non è tanto definire se le specie esistono o non esistono, ma cercare di mostrare gli aspetti destruenti di questa categoria che ben si inserisce all'interno della norma sacrificale che caratterizza la nostra società. Se così stanno le cose, ovviamente l'antispecismo dovrebbe dissolversi, nel senso che non solo che nel momento stesso in cui il concetto di specie non è più operativo, non ha più neanche bisogno di essere operativo il concetto di antispecismo, ma il vero antispecismo, secondo me l'antispecismo più maturo, è un antispecismo che dovrebbe dissolversi, nel senso che dovrebbe far proprio a questo concetto che la specie non esiste se non come costrutto politico performativo. Quindi il nostro problema non è più tanto di definire quali specie possono accedere ai cosiddetti diritti umani, ma smantellare l'operatività di questo potente concetto sezionante. Relativamente invece all'altro libro, Altre specie di politica, Hard riconosce agli animali la capacità di resistere, la resistenza animale. Allora, in questo senso ti chiedo, la resistenza animale come si pone rispetto al capitalismo? Beh, innanzitutto il libro è un libro scritto a sei mani o a sei zampe, perché siamo io, Marco Maurizio e Michael Hart. Come dicevi tu, Roberta, il libro si incentra intorno all'intervista fatta a Hart, che è uno dei principali pensatori marxisti odierni, che insieme ad Antonio Negri ha scritto alcuni capitoli fondamentali come Impero, Comune, Moltitudine. Rientra questo tipo di intervista in una logica della rivista Liberazione, che si è proposta di intervistare pensatrici e pensatori importanti che hanno fornito degli strumenti rilevanti alla riflessione, ma che nello stesso tempo non sono antispecisti, quindi ha lo scopo di far sì che l'antispecismo esca dal suo isolazionismo morale e cominci a dialogare con altre istanze di radicale trasformazione della realtà. In quell'intervista Hart dice esplicitamente se trova stupito di fronte a certi concetti antispecisti, ma li accoglie e li discute, arrivando tra le altre cose appunto a parlare di resistenza animale, pensando lui stesso, a partire appunto dall'esperienza operaista secondo cui il sistema capitalista non si modifica da sé, ma si modifica in risposta alle lotte di liberazione, addirittura sia non solo per sedarle, ma anche per renderle, trasformarle e renderle se stesse produttive. Quindi il parallelo che si viene a instaurare è appunto con la resistenza animale. Se ci pensiamo, alla zootecnia continua a sviluppare nuovi sistemi di contenzione, nuove gabbie, nuovi sistemi di regolamentazione dei corpi animali, evidentemente perché queste corpi animali, nonostante millenni di selezione volti alla selezione dei corpi più docili, di fatto continuano ad opporsi, se no sarebbe antieconomico continuare a produrre nuovi strumenti di disciplinamento dei corpi animali. In questo senso si capisce uno dei tanti aspetti che intrecciano la questione animale con la questione capitalista, fin dal termine capitalismo, che appunto riconosce suo etimo in caput, che è il capo di bestiame, fino appunto al fatto che le stesse lotte di chi è subordinato al sistema capitalista assumono, pur nella diversità dei soggetti in lotta, e quindi sono in grado di mettere in atto risposte differenti, come dire, una dialettica col sistema di oppressione che ha delle caratteristiche comuni. Certo, lo specismo nasce prima del capitalismo, ma forse solo con il capitalismo che lo sfruttamento animale raggiunge i livelli qualitativi e quantitativi che conosciamo oggi. L'invenzione della specie, sovvertire la norma, diventare mostri, di Massimo Filippi, editore Ombre Corte, 120 pagine, 13 euro. Altre specie di politica, di Massimo Filippi, Michael Hart e Marco Maurizi, Mimesis Edizioni, 68 pagine, 4,90 euro.